gli ascoltatori. Gli ascoltatori sanno per esperienza che non è costume di chi cura questa trasmissione e perdersi in vane dietrologie. Ma quando ci vuole naturalmente, ed è arrivato il momento di rivelare coram populo senza infingimenti né reticenze che la famosa lettera dei 6 ambasciatori ultraatlantici, quella che spiegava ai nostri governanti come non fosse compito loro decidere se mantenere o meno le truppe nazionali nel teatro di guerra afghano, perché da parte del governo italiano, quando sono in ballo gli interessi strategici dei dominatori del mondo, è solo quella, come dice il poeta, di servire e tacere, è appunto il momento di rivelare che quella lettera non è, ripeto, non è il frutto di un'incauta iniziativa diplomatica dei paesi che quei 6 rappresentano a Roma. Sarebbe stato quasi automatico per un diplomatico di professione, figuriamoci per 6, prevedere che una simile comunicazione avrebbe suscitato nella controparte irritazione e malumori, visto che nessuno, neanche al più succubo dei ministri italiani, fa piacere sentirsi bacchettare in pubblico. Ci voleva una mentalità ben sottile, uno spirito più aduso ai machiavellismi dell'alta politica di quanto non lo sia un comune ambasciatore per capire l'utilità che il documento avrebbe potuto comunque sortire. E una sola persona, in tutta la NATO, sembra dotata della sottigliezza necessaria per capire a quale risultato avrebbe portato un'iniziativa come è stata chiamata così irrituale. Insomma, non tiriamola per le lunghe. Quella lettera, l'avrete capito anche voi, non può che averla scritta D'Alema. L'avrà preparata prima di partire per il Giappone, dove prudentemente si è fatto trovare quando è stata resa pubblica, e l'avrà proposta alla comunità diplomatica, che so, grazie ai buoni uffici dell'ambasciatore rumeno, di quello bulgaro, personaggi con cui da inossidabile ex bolscevico era probabilmente in rapporto fin dai tempi del vecchio regime, quando Bucarest e Sofia non avevano misteri per lui. Certo, le buone regole della diplomazia non avrebbero dovuto permettere che un documento del genere vedesse la luce, ma sul rappresentante degli Stati Uniti, che in quanto sodale e uomo di fiducia di Bush non deve essere un genio, né uomo di eccessiva delicatezza, si poteva contare. E così l'operazione è scattata, producendo con immancabile conseguenzialità i risultati previsti. Quali fossero quei risultati? Beh, l'avete visto anche voi, no? All'inizio si sono incazzati un po' tutti. Non soltanto i soliti bastiani contrari della sinistra antagonista, i Verdi, i comunisti italiani, quella gente lì, c'era stato male anche Parisi. Non ha nascosto un minimo di disappunto Rutelli, è corso un brividino di disagio persino sulle colonne sempre così ricettive e desiderate degli Stati Uniti di Repubblica del Corriere. Era chiaro che nessuno sapeva esattamente come reagire. La delicatezza del problema e l'autorevolezza dell'interlocutore bloccavano qualsiasi velleità di risposta. Il povero Prodi, nella consapevolezza che l'agognato invito a Washington si faceva sempre più lontano, deve aver passato delle serate d'inferno. Poi è tornato lui dal Giappone e tutto si è bloccato in un amen. Le note della Farnesina hanno cominciato ad accumularsi come se piovesse. Quella lettera, ha scritto D'Alema e ha ripetuto più volte, sarà stata anche animata dalle migliori intenzioni, ma suscitava lo stesso sorpresa e indignazione, e si prestava ad essere interpretata come un'inopportuna interferenza esterna in una materia che è e resta di esclusiva competenza del governo e del Parlamento. Parole dure ed efficaci, e tali non solo da suscitare le scuse del governo rumeno, che conta quello che conta, poveretto, ma da costringere alla difensiva persino il Dipartimento di Stato. Il portavoce McCormack, ho letto, ha dovuto mantenere un profilo bassissimo. E di suscitare soprattutto l'entusiasmo e la solidarietà di tutte le componenti del governo e della maggioranza, era dai bei tempi di Sigonella che nessun politico nazionale la cantava così chiara a quei prepotentoni degli americani. È un sollievo generale, una soddisfazione che levati, una botta d'orgoglio nazionale di cui si sentiva davvero bisogno. e di cui a quanto pare si sono tutti accontentati, perché non vi sarà sfuggito che dopo aver mandato a dire a Bush e ai loro ambasciatori e ai suoi ambasciatori che delle loro imposizioni possiamo fare benissimo a meno, il governo poi ha deciso all'unanimità di accettarle. La missione in Afghanistan sarà debitamente rifinanziata e fino al 2011 da lì non ci muoviamo. Le decisioni su Vicenza restano quelle che sono, cioè la base si raddoppia. Se il Pentagono ha bisogno di altro spazio vicino a Novara, che si accomodi pure, che sarà un piacere. È come se la durezza della risposta verbale abbia esonerato l'esecutivo da ogni obbligo di dargli seguito con i fatti. È una sorta di catarsi politica che ricorda l'esperienza degli spettatori della tragedia antica, e dopo aver dato sfogo con quelle dure parole ai nostri sentimenti peggiori, al latente antiamericanismo che aduggia tanto parte della sinistra italiana, possiamo ritornare a essere nei confronti degli Stati Uniti gli alleati fedeli di sempre. I Mieli e i De Mauro respirano di sollievo. Condoleezza torna a sorridere, l'Italia ha ritrovato la sua posizione nel mondo e D'Alema naturalmente pure. È tutto grazie alla necessità di rispondere a quella provvidenziale missiva che ci ha permesso di simulare una dignità di cui nei fatti ci siamo sempre dimostrati incapaci. Ditemi voi chi altro può aver avuto l'idea di spedircela.